Cielo, dove non passano gli aeroplani, una nuvola sottile si confonde coi gabbiani. Quello è il posto che mi accoglie quando l'orizzonte è terso, è il rifugio dei pensieri quando sento di essere perso. Più sotto le scogliere schiaffeggiate dalle onde, un'inquietudine di acqua sta abbracciando le sue sponde, una vela in lontananza a trascrivere nulla, la sua storia solitaria che mai nessuno leggerà, mai nessuno leggerà. Forse il mare che mi parla, una lingua sconosciuta, una voce calma e chiara, una nota ripetuta, movimento senza fine, come il ritmo di un respiro che contiene nel suo flusso il passato ed il futuro. Ed è lì che sento alzarsi fra gli spruzzi una risposta, dentro un'aria densa e viva, come nei giorni di festa, come nei giorni di festa, come nei giorni di festa. Ed il tempo si ritira un po' più in là dell'infinito, e lo spazio si ripiega come un albero abbattuto. Al momento sono solo, sono parte di tutto io, la sola verità io, il seme, il frutto, il frutto. Io, il frutto. Forse il mare che mi parla, un linguaggio sconosciuto, una voce calma e chiara come un suono ripetuto, movimento circolare come il battito di un cuore che riempie l'universo con la luce e col calore. Ed è lì che sento alzarsi con la brezza una risposta, dentro un'aria densa e viva come nei giorni di festa, come nei giorni di festa, come nei giorni di festa. C'è sta un angolo nel cielo col cartello riservato, mi ci perdo e ci ritrovo tutti i luoghi che ho sognato, e il rifugio dove scappo quando mi va stretto il mondo, dove vorrei ritornare quando sarà il mio momento, quando sarà il mio momento, quando sarà il mio momento, quando sarà.